Perfetto, possiamo partire allora per l'appuntamento a Teatri di Vita, 50 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini. Un reading concerto, un omaggio, un'orazione così definita per questa ricorrenza, quando il 2 novembre del 1975 il corpo di Pierpaolo Pasolini veniva trovato massacrato sul litorale di Ostia. A Pasolini, giustamente nella città in cui è nato, nel 50° anniversario del suo omicidio, Massimo Zamboni dedica lo spettacolo PPP, Profezia è predire il presente. Buongiorno Massimo, ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti voi. È proprio una ricorrenza molto forte questa, no? 50 anni esatti, stesso giorno, stessa ora, era l'alba che intercorreva tra l'1 e il 2 novembre, quando il corpo di Pasolini è stato ritrovato. E ritrovarlo oggi, ritrovare quel corpo, ritrovare quel pensiero a 50 anni di distanza è di grande insegnamento, e la prima cosa che ci insegna è l'irreparabilità di quell'atto. Non può più essere ricomposto, quel pensiero si è spezzato, avrebbe saputo illuminarci sicuramente sui tempi in cui noi viviamo, ma non c'è più. E a differenza di tanti intellettuali, Pasolini non è stato consegnato alla storia della letteratura, della poesia o del cinema, ma è ancora una presenza inquieta, viva. Nessuno è stato capace di addomesticarlo, di portarlo a sé, di farne l'uso che voleva fare. Il suo pensiero è ancora lì, che gira tra mille rivoli, anche più opposti tra loro, ineguagliabile in qualche modo. Sì, quando ci siamo conosciuti, da subito per rompere il ghiaccio, mi sono fermato sull'acronimo PPP, Profezia è predire il presente. Giustamente mi hai risposto, sì, è uno degli acronimi, perché ce ne sono tanti con queste iniziali. Però poi abbiamo fatto approfondimento su Profezia e predire il presente. Possiamo renderlo pubblico anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori, Massimo? Sì, ho pensato di interpretare in quel modo le tre iniziali che contraddistinguono quasi come un logo Pierpaolo Pasolini, le tre P di Pasolini, perché mi sembra la sua arte più riuscita, non necessariamente una divinazione, però la capacità di vedere con occhi saldi e colti ciò che sta accadendo in questo momento, ed è una facoltà che noi non possediamo, veramente non sappiamo quasi nulla del mondo in cui viviamo, perché non possediamo il passato, non possediamo il futuro, il presente è depistato, è alterato, è compromesso, è truccato, cioè siamo veramente delle banderuole. Questa sua capacità avrebbe potuto accompagnarci anche oggi come guida, ma ahimè l'abbiamo persa. Canti popolari, un omaggio a Giovanna Marini, brani estratti dal lungo percorso musicale che hai avuto e che hai, tre inediti, La rabbia e l'hashish, Cantico cristiano e Tu muori, che conducono lungo un percorso sempre più scuro, quasi desolato, per accompagnare il pensiero e la fine del pensare di Pasolini. Insomma, ci puoi dire qualcosina anche a proposito di quello che hai selezionato per questa serata, quello che verrà proposto? Certo. Insomma, innanzitutto siamo in trio, sono con Eric Montanari e con Cristiano Roversi, che mi accompagna ormai da 15-20 anni. Le canzoni sono un po' selezionate da sé, nel senso che accostare delle canzoni al corpo poetico pasoliniano è un'impresa, sì, un po' sfacciata a volte, molto compromettente. Poi io, con grande sorpresa, ho trovato nuovi sensi in alcune canzoni che avevo già scritto, come Sorella sconfitta, come Fermamente collettivamente, Vorremmo esserci, che in qualche modo prendono una vita nuova e diversa, accostate a Pasolini. E tre canzoni nuove che mi servivano per completare lo spettacolo, un paio di cover, vogliamo chiamarle così, reinterpretazioni, una da Giovanna Marini, che aveva dedicato alla morte di Pasolini un lamento che ho reinterpretato, e una di José Afonso, che aveva composto quella canzone che è diventata l'inno della rivoluzione portoghese, Grande la Villa Morena, rivoluzione portoghese del 74, una delle ultime vittorie, sì, del nostro continente. Certo. Tutto questo insieme forma la parte musicale di uno spettacolo che affianca questo vede alcuni scritti miei che riguardano Pasolini e un buon numero di sue poesie che ci accompagnano alla scomparsa di questo uomo. Allora, entriamo nel personale, perché è bello poi confrontarsi anche in maniera sfacciata, come tu hai detto. Hai parlato di musica e hai aggiunto questo aggettivo per portare una colonna sonora, una figura come Pierpaolo Pasolini. Però tu sei uno scrittore, anche molto fecondo come scrittore, insomma. E in questo caso, come ti relazioni con tutto ciò? Diciamo che la scrittura ha allargato il mio campo visivo. È appena uscito un nuovo libro che si chiama Pregate Perea, e questo nuovo libro, insieme al percorso pasoliniano, insieme agli altri libri, ormai c'è un comune denominatore in tutto questo, che è uno sguardo rivolto agli scomparsi, non per culto del macabro, io non sono... Ti ho capito, non sei gotico. Vivi in campagna, no. Sono romanico. Esatto. Vivo in campagna e amo il verde, gli animali e tutto ciò che sorride. Ma al di là di questo, la presenza degli scomparsi è fondamentale, perché vivono dentro noi, attorno a noi, prima di noi, senza che questo diventi un culto necessariamente, però anche se alcuni aspetti di culto ce l'ha, insomma. E la scrittura, con i suoi tempi lenti, mi consegna con più facilità la capacità di rapportarmi a chi non c'è più. Io ti ringrazio tantissimo, grande piacere di conoscerti intanto, Massimo. Poi ricordiamo e ribadiamo l'appuntamento, lo spettacolo PPP, Profezia e Predire il Presente. Appuntamento è nella sala Pasolini di Teatri di Vita e sarà per domenica 2 novembre alle ore 21. Massimo, sì, grazie di cuore. Vi aspettiamo molto volentieri, per me è un appuntamento importante, insomma. Un caloroso abbraccio, grazie a te, a presto. Ciao, ciao.